Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. 14ª puntata. Un giorno ci passai veramente dalla via dei Tre Fichi, come noi la chiamavamo. Aveva piovuto e ancora il cielo gocciolava. A Otranto con la pioggia i colori cambiavano tutti. La terra da rossa si faceva marrone e quello che era verde diventava verdissimo. Camminando vicino al muretto dei Tre Fichi toccai con la mano l'erba che gli cresceva in cima. Era morbida e bagnata. Le ultime gocce d'acqua facevano toc toc sulle foglie grasse dei fichi d'India. Ma poi d'un tratto una nuvola si squarciò, un'altra pure, e in pochi momenti uscì il sole, sicché le gocce d'acqua sui fichi d'India presero a brillare. Restai un poco lì, ferma, come se aspettassi una cosa, e quasi mi irritai che la coppia non ci fosse, che io non avessi il gusto amaro di scoprirli e di vedere Manuel stordito e impacciato. Poi fu come sempre nella vita, che quando succede quello che ti sei immaginato pezzetto per pezzetto nella mente, è già bella che un'altra cosa. Una volta, infatti, incontrai Manuel nella piazza, proprio mentre l'attraversava al fianco di una dama. Era una signora piccola, dal visetto roseo, avvolta nella seta e nei pizzi, che camminava felice sentendosi tutta sana e graziosa. Mi mancò il respiro. Ma lui no. Lui non fu per niente impacciato o stordito per il fatto di incontrarmi. Anzi, fece con il braccio un gesto di saluto, come io fossi un vecchio amico che incontrava tutti i giorni allo stesso posto. Sorrise anche. «Ma chi era quella?» gli chiesi la notte. «Una signora di Lecce», rispose. «Era bella», esclamai piena d'ira. «Sì, era bella», rispose tranquillo. «La conosci da molto?» «Da un po'». «Tu vai assieme a quella», dissi. Gli scappò da ridere. «Sei più bella tu», rispose infilandomi una mano nei capelli e facendomi piegare la testa a destra e a sinistra. «Per cominciare, sei selvaggia». E con te viene un maledetto desiderio di stringerti fra le braccia immediatamente. Saltai in piedi. Quando parlava così di me e dell'amore, con l'aria di chi si ricorda una sorta di piacevolezza e di gioco, io mi sentivo immeschinita, quasi offesa. «La mia gatta», disse afferrandomi per un braccio. «Lasciami», gridai. L'avrei ammazzato in quel momento. «D'accordo, non devo andare con le belle donne leccesi, ma non possiamo piantarla adesso». Quando Manuel se ne andò, io pensai che non mi amava. Forse anzi non mi aveva mai amato, ma avrebbe continuato lo stesso a venire da me, magari per mesi, per anni, e alla fine fra noi non ci sarebbe stato niente altro all'infuori dell'abitudine di incontrarci. Provavo sì una grande pena, ma la pena era niente in confronto al gusto feroce di immaginarmi i giorni e i mesi futuri così come mi pareva che sarebbero stati di necessità. Poi un giorno lontano l'avrebbero trasferito a Napoli, a Taranto. Avrebbe detto allora con la sua solita grazia da signore: «Mia cara, devo proprio partire, questa volta purtroppo per sempre». Sola per la lunghezza dell'intera giornata, seduta nel cortiletto, senza più voglia di lavorare, avrei pagato non so che cosa per capire se le cose stavano così. Perché certo, se stavano così, era molto peggio che se già mi avesse abbandonata. Era molto più offensivo. Sa da vedere. Concludevo fra me. Sa da vedere a forza. Venne la festa dell'Assunta ed io, messa la mia veste bella, andai alla funzione nella cattedrale, che era piena di gente di ogni qualità, divisa secondo il grado e la parentela. Nella navata di mezzo, per esempio, fino alla colonna dello Spirito Santo, appeso con alette d'oro di colomba spalancate, erano disposti scanni e sedie coperte di damasco per i signori. Subito dietro, in quattro file di banchi, pregavano gli ufficiali spagnoli e napoletani, con gli occhi fissi alle belle dame sedute davanti a loro. Infine venivano i pescatori e tutti i popolani o trantini maschi, mentre a noi donne spettavano le navate di destra e di sinistra. Lui è là, mi dicevo guardando verso la navata di mezzo e cercando con ostinazione la sua testa. Tutto ad un tratto mi venne un'idea che mi afferrò allo stesso modo come nelle bufere di tramontana: se per caso sei in una via aperta, il vento ti prende, ti spinge avanti e ti fa correre per forza, anche se non vuoi. Appena la cerimonia finì, uscii sul sacrato, aspettando che anche lui uscisse, e gli andai incontro. «Facciamo 4 passi fino al porto?» Mi guardò esterrefatto. «Noi due? Sei ammattita? E che dirà la gente?» «Ma se ne parlano già tutti», io risposi. Lui strizzò l'occhio. «Le parole sono femmine, i fatti sono maschi». Seguitò. «Una cosa è sapere, cara mia, un'altra è vedere. E che vedere? Oggi è festa, ti vede mezza Otranto». «Non me ne importa», risposi fiera. Lui alzò le spalle, si girò verso la piazza e disse: «Dove vuoi andare?» «Fino al porto, e poi mi accompagni a casa». Ci avviammo. L'aria era piena di luce d'oro e le strade come fiumi bianchi scendevano al mare. Per un momento sognai di essere la sposa di Manuel. Ecco, si era andati insieme alla messa e ora si tornava a passo lento verso la nostra casa. Lo guardai. Camminava al mio fianco irrisoluto, come uno che non sa bene se deve fare una certa strada o no e si guarda attorno con l'occhio perso. A un tratto disse, non senza una punta di stizza: «Questa, Idrusa, che novità è?» Io invece risposi: «Chissà come sono grandi le strade a Napoli e quanta gente di tutte le maniere si vede in giro. Deve essere una meraviglia». «Sì, sono grandi. Noi qui siamo tutta gente troppo quieta. È peccato. Ci devono essere tante cose da vedere nel mondo». Eravamo arrivati al porto. Le barche giacevano in secco, coricate su un fianco, mentre in alto sopra il molo, dal lato ombroso, i pescatori vestiti della festa stavano fermi in piedi a piccoli crocchi, voltando ogni tanto qua e là il capo in un silenzio quieto e sereno. Così essi si godevano il riposo di una mattina di festa, in attesa di mangiare e poi andare a bere alla taverna fino a notte alta. Quando passammo, gli occhi dei pescatori caddero su di noi e ci fissarono dritto in tale maniera che a me venne una grande fretta di svoltare nel vicolo del crismatico. Solo allorché entrammo in casa, Manuel tirò il fiato e riprese la sua solita aria scherzosa, quell'aria che una volta mi incantava. «Coraggio da tigre!» disse guardandomi incuriosito. Allora per la prima volta dopo 2 anni, con sicurezza, gli domandai quello che volevo sapere. Lo feci nel piegare il velo della messa, come chiedessi una futilità. «Di, Manuel, certe volte mi domando cosa faresti se una donna volesse starti vicina sempre, tutta la vita. Magari sposarti, avere dei figli, magari, eh?» «Ci sono cose spaventose che non posso neanche pensare», lui disse ridendo. Ma ad un tratto si fece serio. Mi osservò socchiudendo gli occhi. «Perché tu invece ci pensi a sposarti, vero?» «Io non lo farò», risposi secca di botto. «Non lo farò per niente, non ci ho mai pensato». «No, senza scherzi», lui disse. «Saresti un'ottima sposa, tireresti sui figli bene, anche se ogni tanto daresti loro delle botte di santa ragione quando ti prende il nervoso». E scoppiò a ridere. Ecco, ero riuscita a fargli dire chiaro quello che pensava. Tutto era accaduto in un attimo, come quando uno muore alla guerra. Manuel, appoggiato allo stipite della porta, disse: «Tesoruccio mio, a lunedì, adesso devo proprio andare». Trasalii e lo accompagnai alla porticella del cortile. Prese l'accorciatoia verso la piazza. Benché fosse l'ora della piena calura, uscii dal cortile nell'orto. Andavo in su e in giù, dalla porticella al muretto di cinta. Era un meriggio d'agosto in cui il cielo assomigliava a una grande seta azzurra che non sarebbe mai scolorita. Andai fra le piante di pomodoro, staccando con violenza le foglie secche. Colsi un pomodoro maturo. Arrivata alle piante di garofano, tornai indietro per prendere un secchio d'acqua che buttai sulle radici. Che cosa c'era altro da fare? Mi sedetti sul gradino d'ingresso dell'orto, il sole scottava. E di me, che cosa potevo fare? Tutto quello che avevo desiderato era finito. Potevo morire. Thank you. Quelle giornate erano lunghe. Giravo per casa, uscivo in cortile, rientravo in casa, uscivo sulla porta verso la strada. Un giorno vi trovai Mastro Natale che puliva ricci. «Sono ricci della Palascia», disse offrendomene uno. «Perché della Palascia?» chiesi. «Sono diversi». «Non hanno sabbia come quelli della Punta», disse. «E la carne è più rossa. Li chiamano i ricci dell'arciprete e costano 2 soldi più degli altri alla dozzina, per la rarità». Io non sapevo nulla di ricci della Palascia e di ricci della Punta, perché Antonio sprezzava la pesca di scoglio e si metteva in mare solo per andare al largo. Mastro Natale spaccò in due un riccio, lo rovesciò mentre lo puliva, lo depose con cura nel canestro. «Che hai?» disse. «Niente», risposi. «Parla, forza». «Tu mi spii», risposi. «Tutti voi pescatori mi spiate, mi sprezzate. Anche le donne mi sprezzano, perché vado con uno spagnolo. È così, no?» Lui spalancò le braccia come il prete al Dominus Vobiscum, poi prese in mano un altro riccio e cominciò a pulirlo. Mi passavo la mano sulla fronte stropicciandola nell'irritazione. Dissi: «Hai pescato stanotte?» «Sì, frittura». «Hai venduto?» «Subito, stamane. Comprano tutto il pesce ai presidiari spagnoli. Diventano pazzi a vederlo nella barca. Non sono abituati alle cose fresche». Si alzò, sgranchì le gambe. «Bisogna vederli», disse. «Quando fanno il bagno, gridano entrando in acqua come donne. Poi quando si sono scaldati sembra che il mare sia loro. Ma se per caso ingrossa, urinano dalla paura». Tornato a pulire ricci, ripeté: «Che cos'hai?» «Che Dio mi aiuti», dissi sospirando. «Dio in queste faccende non c'entra per niente», lui rispose. «Se fossi rimasta lì ancora un poco, sarei caduta ai suoi piedi e mi sarei messa a piangere come quell'altra volta al cimitero. Lo lasciai di botto e rientrai in casa». Il lunedì sera ero inquieta per il prossimo incontro. Misi la veste della festa e acconciai i capelli alla maniera delle signore, assettando le trecce in alto con un pettine d'osso. Ma a mezzo dell'acconciatura d'un tratto mi ricordai della prima notte d'amore con Manuel, della luna nel cortile, dei suoi passi, della felicità di quell'alba lontana. Ripresi a pettinarmi e mi guardai a lungo nello specchio. Sì, ero bella, ma a che? Quando udii il suo passo sul lastricato, sulla testa, mi dissi, e feci finta di canterellare. «Siamo allegri», disse entrando e posando su una sedia il mantelletto di seta. Continuai a canterellare mentre lui mi sogguardava. «Salute», disse. «Che splendore oggi! Vieni qua vicino, fammi vedere». Invece corsi leggera verso il cortiletto e mi fermai sull'uscio. «Beh, che fai?» «Mi va un po' di fresco, ci sediamo qua». Mi accontentò. Seduto di fianco a me, ora mi stringeva la vita, ora mi accarezzava i fianchi e diceva: «Che idea stasera!» Provai una gioia rabbiosa a appoggiare la testa sulla sua spalla e levarla sul più bello, per capriccio, mentre lui mugolava. «Questa è la stella polare», dissi segnandola col dito. «Già», fece lui. «Con l'ottobre non si vede più dal cortile», dissi. «Perché dobbiamo occuparci di stelle stasera?» Poi disse: «L'amore è anche questo di bello, che fa stare zitte le donne». Cominciò a frugare con una mano sotto le mie vesti. «Calmati», dissi. «Non ho voglia stasera». «Come?» La sua voce era piena di meraviglia. «E perché?» «Perché non ho voglia. Che novità è questa?» «Dunque», pensai, «lui non ha capito l'ultima volta. Dunque, dietro le belle parole, la grazia, i vezzi che mi incantavano, Manuel non aveva niente. Al posto dell'anima, lui aveva quelle parolette vezzose. Così per 2 anni avevamo fatto l'amore e io ero sempre stata sola, perché fra lui e me c'era il vuoto. Io non l'avevo visto prima, ma c'era». «Accidente di novità, è sempre andato bene tra noi due». Balzai in piedi. «Finiscila, idrosa». Prendendomi con violenza mi portò di peso sul letto mentre io avevo il cuore in gola. Mi si buttò addosso. Maledizione, i suoi baci mi scuotevano ancora, ma insieme mi trovavo a pensare a quello che succedeva al mio corpo, e questo non era mai capitato. I suoi baci mi eccitavano e insieme mi davano disgusto, e invocavo la liberazione da quel piacere disperato. Non potevo guardarlo in faccia perché non sapevo come la cosa sarebbe andata a finire. Forse gli avrei gridato: «Io ti odio, Manuel». Stavo con gli occhi chiusi e la testa rovesciata indietro finché Manuel si distese tranquillamente a fianco a me e si addormentò. Aprii gli occhi, mi sollevai su un gomito e cominciai a guardarlo. La fiamma della lucerna ora cresceva, ora diminuiva, piovendogli a momenti sulla faccia. Chissà, pensai, com'eri quando avevi 10 anni, 12 anni. Chissà, forse se non fossi cresciuto in mezzo a gente vestita di seta e di drappi, a gente che non fa mai nessun vero lavoro e crede di poter fare qualunque cosa, forse saresti stato un altro. Allora mi venne in mente il mare mosso alla processione dei santi Cosma e Damiano, quando la barca degli spagnoli cominciò a rollare di fianco a quella di Colangelo e Manuel a fissarmi senza interruzione. Se non fossi andata a mare alla festa, o se solo la barca di Colangelo fosse stata a sinistra invece che a destra di quella dei santi medici. Un'idea mi fulminò. Antonio sarebbe vivo, ci sarebbe lui qui. Dormiva sempre sul fianco sinistro e teneva una mano chiusa a pugno sul cuscino. Quando si svegliava la sua mano si apriva e veniva a mettersi sul mio collo. Fissai ancora Manuel. È passato tanto tempo. Io ho fatto tante cose per finire così. Allora mi tornò il pensiero di prima. Ti fidi della tua nobile razza, no? Uno come te può andare a letto quando gli pare e con chi gli pare. Tu sei un signore, spagnolo anche. E io una figlia di pescatori, povera anche e sola. Che cosa poteva succedere d'altro tra noi due? Ma io perché non l'ho mai pensato? All'alba, quando Manuel prese a vestirsi e io distesa nuda nel letto con le braccia sollevate dietro il capo, vedevo il rettangolo della finestrella schiarirsi e cambiare colore da un momento a un altro momento, fui sorpresa di quella notte così diversa dalle altre. Pensai che certe cose si possono anche fare col calcolo, ma non si dovrebbe, e che così io avevo passato la prima notte da prostituta della mia vita. Lui stringeva la guarnacca e voltava sul diritto la borsa di seta appesa alla correggia. Si vestiva sempre con tanta cura. «Non mi accompagni fino all'orto?» disse. Sollevai le gambe dal letto, fui in piedi e infilai la veste. «Il tempo si è messo al bello», lui disse. «Viene tramontana», risposi. Nell'orto la buon'aria del mattino, che sapeva di mare e di finocchio selvatico, rinfrescò la gola, le braccia, tutto il corpo indolenzito dalla notte. Quando fumo presso il muretto di cinta, lui disse: «Ah, mi ero dimenticato. Oggi parto. Devo andare con 4 uomini a Brindisi a portare un messaggio al viceré da parte di Don Felice Ayerbo d'Aragona. Si parla di turchi in giro, si dice che potrebbero occupare l'Albania. Ma staremo a vedere». Si interruppe. Riprese: «Sarò in sella a uno stallone andaluso che per Dio è uno splendore». Non gli chiesi, come al solito, quando sarebbe tornato. Fu lui stesso a dire: «Mancherò un po', credo di tornare con la luna nuova fra un mese». Silenzio. Lui disse entusiasta: «Ah, ma se vedessi quello stallone, al diavolo in corpo!» Si passò una mano sui capelli, poi mi fece una carezza. «Eh? Sta allegra!» Lo guardai fisso, ma lui già s'era distratto. «Sarà un viaggio velocissimo con quella bestia. Ti porterò un regalo. Vediamo, un fazzoletto ricamato? No, uno scialle. Va bene uno scialle?» Silenzio. Non è facile indovinare i gusti delle donne. Tu dici uno scialle e loro pensano: «Ma perché non un rotolo di pizzo? Va a sapere. Hai qualche desiderio, piccola?» «No», dissi appena. Proprio in quel momento ebbi sicura la rivelazione che di amore fra noi non si sarebbe più potuto parlare. «Devo andarmene», lui disse. Mi fissò, aggiunse: «Via, via tutte le nuvole di ieri sera. Fare l'amore, ricordatelo, è la sola cosa seria che c'è al mondo». Mi baciò. «Alla salute e stammi bene». Saltellò lungo la discesa in direzione del porto e il suo corpo snello sparì alla svolta. Né piansi né tantomeno mi lacerai gli abiti. Mi distesi tutta vestita sul letto, a pancia in giù, affondando le dita nel cuscino, distendendole, affondandole di nuovo per qualche ora. Alla fine mi addormentai. Sognai come se fossi nell'uliveto vecchio del convento di San Nicola di Casole, che ha sempre gran frastuono di cornacchie fra i rami. Ma nel sogno c'era dappertutto un silenzio pesante. Due capre dei monaci zampettavano, battevano le radici degli ulivi e sollevavano polvere rossa. Seduta al bordo dell'uliveto su una spugna di pietra, vedevo da una parte gli alberi e dall'altra una lunga piana deserta di sabbia e di pietra. Era il tardo vespro. Fra poco sarebbe stata notte, la strada fino a casa era lunga, ma io chissà perché non potevo muovermi. Non potevo alzarmi. Se avessi gridato, qualcuno dal convento mi avrebbe sentito in quel grande silenzio, ma io non potevo far uscire la voce. D'un tratto si sentì un battere fitto, distante, come se dietro al convento 100 palmenti macinassero grano. Ma subito quel battere crebbe e si accostò, per cui le capre fuggirono spaventate. Comparve una mandria di cavalli selvatici che correva pazzamente verso di me. Erano tutti cavalli andalusi a testa quadra che nitrivano feroci muovendo nell'aria le code nere. Ormai erano vicini a me. Distinguevo lo scatto dei muscoli nella corsa. Mi dicevo: adesso ti schiacciano, ti battono con gli zoccoli sulla testa. Alzati, non farti ammazzare, su, in fretta. Ma non potevo assolutamente muovermi, inchiodata alla pietra. Mi mosse la voce di mia sorella. «Dormi con la veste, Idrusa!» Mi scossi. «Tu sei sveglia, Idrusa, sì o no?» «Sì», dissi appena. «Mi piacerebbe sapere se ce n'è un'altra in tutta la costa che si mette a dormire così». Mi rizzai a sedere. «Ma cosa fai? È quasi mezzogiorno!» Mia sorella mi guardò a lungo. Disse con tristezza: «Forse è stato uno sbaglio lasciarti vivere sola dopo la disgrazia». «Perché?» «Perché tu non sai vivere, tu ne combini ogni giorno una e sei sempre in peccato mortale». «Questo è il ritornello delle donne, no?» risposi. «Che io sono una peccatrice, una di quelle. Vorrebbero prendermi a sassate». «Non esagerare, ma quello spagnolo t'ha stregato». «Quello spagnolo non lo vedrò più», risposi secca. «Non lo vedrai più. Dio sia benedetto», sospirò. Poi rifletté un momento, disse: «Mi metti paura, Idrusa. Quando decidi una cosa nuova, tu mi metti sempre paura». Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.